Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Avanti, sono io. Ehi, Tony, ciao, ben sentito, là. Come va? Bene, bene, a tre gambe. Due davanti e uno in mezzo. Come mi ascolti in radio? A bomba. Va bene, allora, va bene, là. Perfetto, perfetto. Segnale? Io sono stato col Prinzer, qua più che dove dice non ti dà, capito? Secco, bisogna aggiustarlo, ma non mi fa un cazzo. Dove si è fatto scala comunque? KK, sono contento, sono a casa lì, si ridenti. Meglio così. Ci mancava. E io come ti sto arrivando con quell'apparato? Aspetta, Uri, che picca mio figlio che chiamo? Ok. Non se ne come ha toccato il telefono, porta la telefonata e chiamato mio figlio. Ma è troppo forte, la radio va bene così. E questo qui è un microfono nuovo che sto provando col Galaxy. Ehi, già, sono stato prendendo il gelato, cavolo. Ah, lo sai che non ne può mangiare il gelato? Uno ogni tanto già si fa bene, dai. Ascolta, tu quando premi la portante, dove c'è scritto Signal, dove arriva? Dove c'è scritto Signal? Lo strumento che c'è scritto Signal, dove ti arriva? Allora, c'è manco le bicicletti. Ma quando parlo io o quando parli tu? No, quando parli tu. Allora, a me arriva 79 e quando finisce va a picchi positivi a fondo scala. Quello Signal? Sì, ma io sono stato president, c'è lo split rotondo. Ah, io sto parlando del Galas. Vabbè, là. Comunque, va bene, è troppo forte la radio, sto provando un nuovo microfono. Forte la radio, già, già va bene, comprensibile. Cazzo che buono sul gelato, già. Bravo, dimmelo pure, no? Cane morto, chi è che ha fischiato, va? Qua c'ho il biscotto, corretto, questo è quello che c'ha tanto, ma lui c'è attaccato dentro, poi cioccolato, e in mezzo c'è la marina, che buono. Di, arrivi nel Galassi. Dopo 9.30 c'è scritto DB, sulla D arrivi. Ma è buona, eh? È buona, è ultima, non buona. Quanto è buono il gelato già? Che gelato sta mangiando? Un tipo croccantino che c'ha tanto di cose, nocciola sopra, cioccolato e in mezzo c'è la marena, che buono. Quelli fanno accusi? No, questo dice mangiami, poi non mi mangia l'altro, prendimi pure. C'ho il congelatore pieno, c'ho biscotti, c'ho il cremino, c'ho i cornini, il caffè. Chi è? Non vi ne cagliola, Noghi. Ascolta, se vuoi entrare, la signora della mia luce, non sei basso. Se ci vuoi togliere la porta del corrente, mi fa bene. Voi. Ma poi, se fischia e non entra, boh. Oh, yeah. A scaldare la notte, tutta gli uccelli. E tanto arriva basso, la mia luce. Se tu passi qua, ti ho che ha degenerato. Sì, almeno. Cazzo, sono... Sono a Doluri, mi ho preso anche Lucchi, cazzo, sono sempre a Doluri. Cavolo. Mi stamattina sono riuscito per andare in banca, che se ogni volta sto pagando 2,50 perché ancora la carta non mi arriva. Addirittura. Le commissioni ti fanno pagare allo sportello. E ti speriamo che già arrivi subito, ma dovrebbe arrivare entro venerdì, ha detto. Perché paghi le commissioni? Ah, se vai in un'altra banca? No, le commissioni le paghi perché l'operatore deve digitare lui e tutto quanto. Invece quando le fai tu le operazioni è diverso. Capito? Se le fai tu e non impegni un operatore. Io la banca mia, quando ero in banca, non ho mai pagato niente già. Quindi, alle poste non pago nulla, zero. Non te lo dico, ma li paghi. Basta che ti fai fare il saldo, quando ritiri ti fai il saldo e c'è scritto 2,50 di commissione. Allora, a me mancano sempre soldi con la banca di Sardegna. Mi mandate una fanculo dopo tanti anni, sono alle poste già, non mi mai, anzi, da sempre più. Alle poste sono mille. Ce sono mille volte neanche paragone. Ma il fatto che sei tutto incanalato lì, capito? Tutte le luci, acqua, tutto quanto, telefono. Vabbè. Io frega niente, l'ho tutto tolto perché mi hanno rotto le palle, sono più di mancava. Perché ti scala adesso delle commissioni, è normale. Quando ci sono delle commissioni, anche quello che ti viene a casa, l'estratto cosa che ti viene a casa ti fanno pagare. E poi ti mi lamentavo, scusi, ma come mai mi manca tutto sul fine? Operazioni, quella e quell'altro, scusi, non faccio segni. Non mi mandate una cazzo di lettera. Dove cazzo, perché scrivo il computer, ho pagato il segnale. Comunque, già mi è stato via quanto prima. E così mi ho fatto, me ne sono andato. Stavo pensando ancora al fatto che te l'abbiano abbassata. Perché a Marco, un amico mio, hanno fatto la stessa cosa, lo sai. Ma a te non ti interessa più quello, perché con lui è l'invalidità, tu ci prendi già la pensione di vecchiaia, quindi cosa di una fu. Infatti mi ha detto che lui gli ha dato la pensione, la prende già, quindi quando automaticamente sono andato in pensione mi ha tolto quella, l'assegno di cosa, capito, di validità. Quindi anche se mi ha tolto 7 punti, cosa me ne fotte a me? Ma avessi tolto un po' di soldi, me avrei detto cosa, ma non mi ha tolto niente perché tanto soldi non le prendevo più. Ma la pensione è di vecchiaia, vabbè così, eh. E dopo quanto ti è arrivato, da quando l'avevi fatta la visita? La visita l'ho fatta esattamente il 18 di ottobre. Mi è arrivata 7 giorni fa la raccomandata, siccome io non c'ho campanello, era l'avviso dentro la cassetta, a 5 giorni lavorativi per andare a ritirarla. Ah, raccomandata te la mandata. Sì, sì, e ho due raccomandate, non lo dico perché sono due raccomandate. Vabbè, dai. Infatti a me mi hanno chiesto se luce la mia era passata, capito? Ma dove senti voglio diminuire a tutti? Poi se quando devo rifare la di nuovo un'altra visita o verifica il cavolo scritto, c'è scritto no, cazzo madonna, anche se mi avrebbero chiamato non ci sarei neanche andato, che poi Luigi mi ha detto, Tori, anche se non ci vai non succede niente, ma ero curioso, sono andato lo stesso per questa visita, ma ce l'abbia il culo, e poi ho chiesto, ma lei prende ancora la biscofame, ma io veramente non ne ho mai preso, non so comacco, l'ho detto. E poi cosa cazzo vado a dirlo? Sì che prendo un psicofarmaci, cioè mi buco la patente, vai ci vai a culo. Psicofarmaci. E quando sono stato malato di cuore, capito? Ho la tirata così, la tirata a bucarmi la patente, non lo gioco. E infatti anche lui ci mette, hai fatto meglio, perché loro ci giocano su queste cose. Se quello cosa gli rispondi è un casino. Ma a me tutti. Infatti il dottore ha detto, ma scusi, ma questa vita cosa serve? Prendevo già l'assegno, in validità, me l'avete tolto, saluto l'anno scorso, a fare la visita, me l'avete confermato e poi vado a prendere la pensione, mi avete tolto, a loro c'è niente, va bene, comunque, cosa ne ho se aumenta il punteggio da 5 all'80%? Non c'è niente, e allora? E va, me ne buca tu sette, e me? E cosa ho ciò? Niente, non prima niente adesso. Magari con l'80 ci avevi più possibilità di avere praticamente degli sconti sull'IVA quando prendi la macchina, tutte queste cose qua. E ci sono agevolazioni, tu neanche non pagare il bollo. Insomma, ce ne sono tante di agevolazioni. Ma ripeto già, a me non me la fotti più di tanto. Quindi, non mi riguarda niente. Meglio avere la patente, tranquillo. Ho detto Luigi, ma l'esenzione che c'ho il ticket influisce qualcosa? No, assolutamente no. Sei malato il cuore, quindi quello vede anche toccato. Quelli continuano a pagare niente e basta il ticket. Allora sono a posto, me ne sono trovato a mezzo. E appunto. Sono esente di tutte le visite, quindi infatti quello che sto facendo è laser, cosa, non sto pagando niente. Va bene allora, dai. Ci va bene così. E capa. Adesso domani che tu mi hai la pensione ti negava pure a te l'assegno di negavare. E se ero convinto almeno la metà mi daranno le balle, tutto nel bucato che è. Cos'è cosa ti possono togliere? Praticamente i soldi che ti davano quello che tu hai fatto la domanda, quelli che ti danno 2 mesi all'anno, te lo ricordi? Quelli magari ti possono togliere. No, le balle, perché avevo il 5%, poi non me lo posso togliere, perché mi manca un anno di contributi dal 2015 fino all'ultima visita che ho fatto addirittura dopo un anno. Io la domanda l'ho fatta anche l'anno scorso, non me lo posso usare le balle. Io ho una supposizione, non lo so, non è che sia sicuro, però stavo pensando a quello. Sono sempre invalido perché sono malato di cuore e al diabete, quindi non rompo sulle balle. Se lo metto l'avvocato, io già ho vinto una causa contro l'Inps e mi sono toccato 14.000 euro, quindi non ho messo sale e malle, e se no vuole denunciare. Molta gente sta facendo così, lo sai che le stanno bocciando addirittura le pensioni, le bocciano la prima volta, se non ti metti l'avvocato, poi quando metti l'avvocato scrivo c'è stato un errore, scusate, questo e quell'altro. A me non me la posso bocciare le pensioni, io ho i contributi in 39 anni, qui da me manco me ne tocca, paghisco già. Sono dopo che manco un anno i contributi, mi manca di questi due mesi famosi. E vabbè, quelli te li scala. Quindi me ne devo dare con dei ritratti e me ne dati, perché metto l'avvocato lì denuncio, non me ne appunti nulla, devo dire che sono io. Ancora non conosco chi è Tonino Kawasaki. Ma non è di Suzuki. Ma cazzo, Suzuki l'ha già avuto così in attesa mi va l'onda. Vabbè, ultimamente di Suzuki non è Kawasaki. Vabbè, ma quella di andata via perché non mi piaceva più. Oh, yeah. Avevo anche l'onda poi, lo scuoterò. Insomma, quasi tutte le ci provate, Non è provato il T-Max, che è molto bella come moto. Vabbè, c'è un scuterone, luce qua roba, io mi ricordo, ve lo mettono con un Kawasaki 750, 4 in 1, le vinci, e c'era un T-Max vicino, accelerava, come se altro in verde, ho fatto prima e seconda, ero già vicino al verde e lui era ancora giù, vai, fatto un minuto, vai, pagliaccio, quando è arrivato lui, poi, aveva il semaforo rosso, mi guardavo con la testa bassa, e così, non accelerai più, no. È un razzo che mi ha asciutto. E poi sono motivoso io. Oh yeah. Vabbè. Adesso sei solo macchinazzo. Comunque sono dentro una corazza di ferro, fregatele già. In moto cado gaggi ti raga un segno, non poteva fare. Che ci ho pensato in media ma ragazzo un segno. Lo so, la moto è bella, ma bisogna andare di lì. È come il mare, il fuoco. Ma bisogna andare di lì. Bisogna avere 18 occhi, a chi ti viene l'altro in atto deve avere, come ti dice, faccio un ruglio. E a me, io con Marco piccolino, l'ho seduto in moto, e lo fermo lì al ponte che c'è per andare alla Budibuti lì. Ho rallentato perché devo fare la precedenza, cazzo questa qui appena dove si è l'altro. Ci stanno di nuovo provando, adesso hanno avuto una roba per i coglioni qua a fianco, adesso con molto più che loro, io diciamo le vinci e poi faccio pure la multa, non ho da sapere male, perché io mi dovrei quasi sentire la televisione che c'è Maria e Calippi. Cosa sta seguendo Maria? Yes, dritto adesso, uomini e donne, mia Ida, mia. Ciao Ida! Cappa cappa, vabbè là Tori, mi sa che mi faccio il pisolino adesso, là, era solo per provarlo e vedere come andava, là. Già va bene Gianni, anche io non guardo il pisolino e mi guardo Maria e Calippi. Ok, è perfetto già, adesso ci sentiamo stanotte, là, stasera. Ehi, là, ci sentiamo, ciao ciao. Grazie a tutti. Niente, ciao già, ciao. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Attenzione, binario 10, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova radio, prova radio, prove tecniche di trasmissione. Tony, ci sono, un attimo, ti sento forte e chiaro. Cappa, dai, sto provando un microfono che stavo mettendo a posto, dai, sta facendo bene? Prova radio, si è sentito forte e chiaro da Tony. Cappa, Giovanni, sì, chi sei Giovanni? Hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola. Da Tony, ti sento forte e chiaro, 1, 2, 3, prova. Grazie per il controllo, dai, stavo regolando il volume. Ok, a presto, chiudo, ciao caro. Va bene così il volume, è vero? Capa di Rogero. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Canale 10. E chi è? Canale 10, c'è qualcuno? Ciao già. Ciao, chi sei? Antonio Zorgo. Sto provando un microfono che ho aggiustato adesso, come sta andando Antu? Ma io già ti sento bene. Sto cavolo di quel rem, non capisco cosa sia. forte. A 9. Mi sa che ho ciò che ci vari, che mi sono anche qui da avanti. Stavo disturbando. Sicuramente. Aspetta un attimo, ciò che ti sente un bel basso di radio, Iantu. Aspetta che... Eppure sta andando di radio, questa manetta. Oh già, mi senti? Ho voglia. Ehi! Chi è che fa casino? Sono io il casinista, tu. Ehi, ma la radio non la senti? Come la senti la radio? C'è un MDQRM oggi, ma un bebano. Già lo so, già. Vabbè, qua perché c'ho quel cazzo di paracceso. E quindi mi crea un sacco di QRM. Niente, dai, sono contento che sono riuscito a mettere a posto questo microfono, che aveva le lamelle che non toccavano e le ho registrate, dai. Mo va bene. Aspetta un attimo, già. Ehi là. Ehi già. Ehi, sei in mezzo al QRM, Antu, non ti riguardo, c'è un bel di QRM qua. Tu sei in mezzo al QRM, se sarà appena appena non ti sento più. Lo so, è un bel di casino oggi. E adesso, quando sarò sistemato, tu non sarà paravano già. Ui, mi devo aspettare un altro un bel po'. Mi faccio la stazioncina, il magazzino. Ma non è per adesso, no, quando sarò sistemato. Io voglio mettere un'antenna buona, la Gimpol. Ascolta, tu, ma là ti sei trasferito? E dove sono, secondo te? Non lo so, Antu, cosa ne so io? Ehi, sono là, non c'ho più niente là. Non ho più nulla, già. Adesso più in là vediamo, più in là. Adesso non sto pensando alle radio, prima sto pensando a farmi bella la casa, a mettermi a posto, poi vediamo più in là. E infatti, piano piano, dai. Anche Marco Condor ha dovuto staccare il cavo perché gli stanno facendo i lavori al palazzo ed è fuori, l'ho sentito già al telefono. Raga! Ho detto che anche Marco Condor ha staccato il cavo perché dovevano fare dei lavori dal palazzo. Lo so. Quindi siamo sempre meno. Verrei, è un periodo già. Vabbè, dai. Caraga. Però avevamo un po' di pazienza, che io devo mettermi prima a posto. Poi devo... Non sarà più a casa la stazione, sarà in magazzino tutto. Perché col bambino piccolo non posso tenere le cose in giro, che magari sono anche pericolose e cosa. Mi metto tutto in magazzino, e via. E vabbè, basta che tu te le metti in un armadio e non ti tocca niente a nessuno. E metti, ti fai un armadietto come avevo fatto io, con le porticine, si chiudono e via. No, vabbè, giù libero, mi faccio lo studio mio, dove andare a cantare, dove tutto, ho capito, dove ho il mio ambiente, dove c'ho le chiavi, dove c'ho la roba, dove c'ho questo, dove c'ho quest'altro, eccetera, eccetera. Vabbè, intanto avrei trovato tutte le chiavi, quelle magazzino trovate, ragazzi. Cosa ho trovato? Era un'officina vera, una disperazione quel magazzino. Lo so, era già da tanto così. C'è anche la Vespa, se c'è ancora. Non ce n'è Vespa, no, quella lì aveva venduto un po' di anni fa. Ha venduta, sempre? Sì, c'è una diga storia. Perché mi aveva detto che non c'aveva più documenti, non li trovava più. No, l'aveva venduta molti anni fa, l'aveva venduta. Più di 10 anni fa l'aveva data. Quindi sta circolando adesso? Non lo so, no, quella lì se l'ha assicurata. Aveva data i Babusia, l'aveva data. A chi? A Ivan. Ivan Busia, uno scavatorista. Ah, ho capito. Ma penso che non sia così marco, se l'abbia messa a foto. Ma tanto la Vespa ci vuole poco per ripristinarla tutta. Se c'è la passione, la fai me che non si dica. Il pick-up se la fate in bagaglio 2.000 euro, me. a me il pick up non piaceva, mi piaceva l'estate del pick up, non mi piaceva, mi piaceva la spiccia, da me era 125 primavera. È puro il pick up sta prendendo valore. Sai cosa vuoi dire? Io ve la giurito, non toccarla che sia morto, dite che se la dubbia bucata le palle. Toccarla. Addirittura in magazzino ho trovato anche la targa. Ah, c'era la targa, vabbè, ma la targa è una cosa personale, perché si passa da una moto all'altra adesso, lo sapete? Non te ne fai più nulla di chissà. No, ma infatti. È personale, capito? Lui l'avrà fatta col suo nome e cognome e tutto quanto. Quindi lui se vendeva quella vespa poteva tenersi la targa, se poteva passare un'altra moto direttamente. No, il mio c'ha il libretto. C'è il libretto la mia. Come la macchina? Già lo so. Cappa. E la macchina? Sì, la macchina della. La demo. Ma l'è fermata? Sì, è qua. Appagato. E vabbè, quanto piano piano, dai. Ma devi liberarla con la casa oppure devi sistemarla sopra? Beh, un montone, è vero, un montone di garraggio per entrare in questa casa. E ti ha giudito tutto, me. E vabbè. Vuol dire che non c'era ordine, dai. Ma cosa cazzo vuol dire la shopper? Bingo vera. Adesso io a pezzo già mi sto sistemando il magazzino, perché ci devo scendere un bel po' di roba lì, via, un po' di garraggio ancora da lampare, un po' di roba. Basta, la roba che non ti serve, se vedi che è buona te la vedi a Portobello, a Pidocchio, cosa, e l'altra ce la butti. Già, un bel di stranezza ci ho trovato in quel magazzino, se no tutta la roba lampata, in terra. No, vera un coso, vera un casino. Manco una moto riesci a entrare. E Sara come sta? È all'ospedale. Sempre lì. Beh. Ma cosa c'aveva? Minacce? No, è che non è stata bene, un pochettino, deve nascere, deve questo bambino. E quanti mesi ha adesso? 8 mesi. Tra un po' ci entro nel 9 mesi. Ci siamo quasi. E a te ti fanno andare a trovarla, sì? Sì. Ah, perché prima non stavano facendo entrare. Vabbè, dai, speriamo bene tutto quanto, dai, piano piano. Piano piano, già. La fretta ha fatto fare i figli ciechi al gatto. Gaffa gaffa. Maschietto è me. Maschietto è il... Com'è che lo chiami? Gabriele. È un bel nome, dai. È un bel nome. C'ha il pisellino piccolino, già. Hai visto l'ecografia? Sì. Gaffa gaffa. Va bene, dai. Sono contento per te, Antu. Eia. La vita si evolve. Già lo so, già. Già. L'importante è che risolva un problema grosso che ho. E non vedo l'ora di venire, ragazzi. Poi già ti spiego al telefono. Ogni giorno c'è una sorpresa, cioè. Lasciamo perdere, va, no, qua non te lo dico. Kappa. Mi hai detto che passavi, invece non sei passato, non hai tempo, si suppongo che non hai tempo. Già ci vediamo, già passo un giorno. Non c'è problema, quando vieni ci prendiamo il caffè. Eia. Tanto già passo, ci facciamo una chiacchierata. Andavè. Se non c'è manco Sara, datti una mano lì. Sono. Tua sorella è lontana, cavolo, anche lì. Lo so, lei ha fatto tanto per noi. Lo so. E Monica è una brava ragazza. Quando mi ha visto mi ha baciato, la verità, e mi ha riconosciuto subito, mi ha detto ciao Gianni. Perché mia sorella è una persona come per bene, come si deve. Non è, vabbè, non voglio fare nome. Lo so, tu. Io la conosco da piccolina, veniva per mano con tua madre al Ciso, me lo ricordo benissimo. Cosa vuoi che ti dica già? Eppure a te conosco da piccolino. Lo so. E vabbè, tu, piano piano, adesso risolvi tutto. faccio un attimino di bianco, di bianco, chiudo perché devo fare una cosa. Già ci sentiamo già. Vabbè, anche non c'è problema, quando vuoi già lo sai. Ciao ciao. Ciao ciao. Usa il Galaxy un attimino, Tony. Cosa? Usa un attimino il Galaxy. Alfredo, sta carantena qua, metterla lì, aspetta. Ecco, Tonino, adesso dimmi dove c'è scritto Signal. Cosa ti segna? Dove c'è scritto Signal? Ma la parte bassa o dove c'è di B? Gli strumenti. Gli strumenti, guarda, il primo strumento c'è scritto Signal e l'altro c'è scritto SVR. Cosa ti segna Signal? Prova a vedere. Adesso ti segna il segnale, così è. Ma mi sta segnando su di B 930. Il Signal è sotto, Bigianni. Eia, ho capito. È un'altra cosa che devo vedere. Quando parli tu, dove c'è scritto Signal, si muove la lancetta. Aspetta. No. Allora la lancetta lì non si muove per niente, mi si muove dove c'è lo smitter in DB di guadagni, eccetera. No, neanche, dove cito SWR, eccetera, eccetera. Modulazione arriva il 9.10, 9.12. Sì, sì, allora apposta, non me lo ricordavo, stavo sclerando. Vabbè, comunque ho messo a posto anche il microfono, il turner, che non toccavano le alette e non usciva. E adesso l'ho messo a posto, adesso funziona bene, funziona egregiamente. Prova a attaccarmi mia a vedere. Io adesso sto uscendo con un microfono da palmo. Anch'io sto usando quello da palmo già, l'originale suo. No, questo non è l'originale suo, questo è amplificato. Ma io sto usando il mio, è l'originale suo. E va bene, è vero questo qua, mi sa che lo lascio. Sì, è abbastanza ottimo come radio. KK. E va bene allora. E adesso ne sto facendo un altro, il microfono. Ne sto preparando un altro. Devo cambiare le capsule, le cose, vediamo un po' com'è. Ecco, ti ricordi quell'ammettatore che tu mi hai dato? Allora, dove c'è il voltammetro praticamente? Si è attaccato il vetrino, lo devo dire incollare, incollato era. Incollato era, vabbè io, Tony, a me me l'ha dato così Sabassone, non lo so, io a me non mi si è mai scollato, magari con l'andare del tempo ha perso la presa. E li metto un po' di attacco, oppure li metto, c'ho anche la colla liquida, cioè quella con la pistola a me, la c'era. Se no li metti un po' di silicone bianco, di quello trasparente, là. Eppure, tanto perché scaldano, perché sono lenti quelli accesi, quindi. No, non scaldano nulla qui. Silicone resiste, dai, caso è nell'acquario con la luce accesa e tutto quanto, i vetri sono attaccati a silicone. Sì, lo so già. Lo giacci. Sì, voglio provare proprio qualcosa, sto sidertichi. L'acqua va a 28 gradi, 29, dipende. Rimane 12, dunque 10, 11, sì, 12 e qualcosettina di volts. Gli ampere non è che sta consumando un cavolo, guarda. 2 ampere, 2 ampere e mezzo. Quello lì è buono, non se ne trovano più mi così. Così con il trasformatore è pesante perché è un trono. E questo c'ha esattamente 15 volts. 20-23 ampere al massimo. Sui 25, nella 23-25, non me lo ricordo bene quanto mi ha detto quella persona. Però andava bene perché alimentavo tutti gli apparati e non scendeva di un millimetro. Io ne ho chiuso da 25 e vado a 35 ampere. Io ce l'ho da 50, da 35, ne ho due. Uno da 50, uno da 35 e poi c'ho quello dei cinesi che è da 50 lo stesso. E poi c'ho quello di Emanuele che voleva sempre Franco. Con lo svincere, c'è di sigaro e tutto già. Con 32 ampere, bello quello lì, con la vetro dietro. Scappa, Sì, quelli sono switching però. E sono diversi, c'hanno la scheda quelli, capito? Non sono col trasformatore. Anche questo che c'ho io da 50, ne ho uno di quelli che si mettono nel computer, va benissimo. Io alimento 300 watt con quelli. No, quello Matteo Manuel non è di quelli cinesi e Gianni, è un signor abitatore, quello per un media. Io quelli cinesi ce l'ho, è tutto diverso. Ho anche formato Emanuele, ho fatto di vento le cose, quello lo voleva Franco, e chi non l'aveva mai dato, io con lui ci ho fatto scambio e no, io non ho detto che decidi, ho detto che c'ha la scheda al posto di avere il trasformatore, capito? Sono con le schede. Invece quello che ti ho dato io c'ha un trasformatore interno, poi su di Pisa. Sì, ma anche con Emanuele c'ha il trasformatore, ce l'ha messo a prendere affondamento infatti. C'è il trasformatore, sicuro. Scappa, quello lì è anche pesantuccio, c'è anche la ventola di raffreddamento, invece gli altri che ho preso dai cinesi c'è la scheda, beh non c'è nessuna ventola. Ecco, no, il mio già ce l'ha la ventola, ce l'ha la ventola. E io gli ho fatto anche l'interruttore sopra, si può usare proprio come un alimentatore normale, gli ho fatto l'interruttore sopra, gli ho tagliato quelle finestrelle che c'ha il raffreddamento, gli ho fatto lo spazio per metterci il tasto e gli ho incastrato il tasto, ma è uscito bene. E anche io ho 3-4 ventole al limite, le posso mettere anche per qualcosa, anche per il famoso il 747 che mi aveva dato Franco, però mi aveva dato anche un po' scalda, capito, con un dissipatore di alluminio che l'ho fatto messo sopra, metto il ventolino lì e un bambino. Scappa. Oh, non mi sembra vero di vedere la stazione tutta bella completa. Ma ce l'avevi già, Baracchi, avevi un metro, ora la ragione del biliardo. Mi piace, poi io il mio lo conosco, non era mai stato toccato, capito? Mi piace un non si uscì di radio, silenzioso. Cosa? Hai fatto quasi finale, quasi zero di radio. Ci sta mettendo la portanzina. Ma a me stai dicendo, Tony, non ho capito. Non si è uscito in radio. Ah, sì, ho premuto male il pulsante, infatti senti fuori la voce. C'è una portanzina, ci sta mettendo. Ma mi tocca a me già. Qui c'è il QRM. Avanti, se vuoi entrare in portantina, se no ti lasciamo in parcheggio. Vabbè, non la gana. Funziona tutto già. Entrano di subito sempre alle 7, così Roberto chiude alle 7 e entra a quell'ora lì. Chiudo arrugginito, non stai sempre a quell'ora, più o meno. Tutti a quell'ora, entra dalle 7 alle 8, là. Adesso sì, sulla banda di tu, ma sulla banda è una già. Sulla banda? Lui che mi fa il gorigori mi. Oh già! Ho detto, ma non mi senti già? E cuda la buona sopportatevi. Dai, metti la fissa e mi togli il QRM, dai. Ma io guasto, mettila. Gianni. Oh già, ma non mi senti? No, io sulla bandana non ti sento. E allora tu sei quel baracchino messo male. No, no, il mio messo male perché sto uscendo, ho guardato. Allora, aspetta. Qua sono sul 10. Allora, vediamo un po', aspetta, adesso scappo da qua, aspetta, un attimo, voglio fare una cosa. No Gianni, sei tu messo male, io sono andato con il presidente sull'80 e mi va la portante, mi sento pure. Ma sull'80? Praticamente sul canale 50, 27.500, aspetta, 27.525. Prova a andare. Dai, già non ti sento. Allora, sono lì. E io. A me mi segna 27.415 lì. Ma stai scherzando? Vedi, quando c'è qui c'è il canale 40 del mare. Canale 41 sarebbe. Io sul 10 vado, ma da mia sono esattamente il canale 50. 27.525. Chissà cosa mi ha toccato il baracchino. Vai tu a vedere fin dove arrivi, 27. 525 e prova a parlare lì e vediamo che canale si vede che arriva 27 415 al massimo sulla E. Sulla E il canale, cioè arrivi al canale 40 dove arrivi? Allora ci sono A, B, C, D, E, io vado sulla E e 27 415. Aspetta, ma su questo canale stesso? Sì. No, è casino, c'è quel baracchino. C'è il canale 41. Ma tu tabella ne hai? No, lasciami dire, tabella mia, non è stato mai aperto, è perfetto il baracchino, te lo sto dicendo. È 10-10. Adesso sono 27.075. Ma che è mio 27.075? Vai su 40 normale a vedere. Eccomi qua. Anch'io ci sono. Scappa. Vabbè così. C'è una frequenza in più, è normale che capita, che sia diverso. E infatti mi sembra come che mai ci stavo attento. Questo va bene perché io stavo guardando e sta uscendo, è tranquillo. Sta uscendo bene anche con un po' di watt. Da più di 12 watt questo. Ma io sinceramente non l'ho mai misurato. No, manco io, non l'ho mai toccato e prima usciva con 9, vabbè. Si è dato forse il massimo della potenza. Aspettami qualche secondo che prendo dalla madre a muro il microfono, quello da tavolo e come esco già. Quale? Il Carle? Eia. Chi è che fischia? Gianni? Oh. Com'è la radio? Bella, forte. Hola, hola, hola, hola. Una sagosa, almeno amplifica. Sì, che cos'è? Che microfono è? Carne, super, Siderkick. Siderkick. Chi insomma, uno di insieme, chi sognito? Con la cosa cromata, con la parte davanti cromata. Come ce l'ho io, dai, più o meno. E l'altro non lo puoi provare, come si chiama? Il Sa Delta, cosa? No, non è la Sa Delta, cos'era? Quello grosso. L'Expander 500. Non lo puoi mettere quello, se non ha lo stesso attacco. Non lo so, aspetta che lo prendo, aspetto qualche secondo. E lo voglio sentire quello lì, quello lì usciva un bel forte, mi ricorda Don Diego, grazie, aveva una modulazione, un guiscio. Hola, hola, hola. Hola, hola. C'è bene, non mi piace, mi piace più l'altro. Non va bene, non piace. No, non è chiusa la radio con Tony. Non rimane aperta come dovrebbe essere. Sembra praticamente che voglia uscire ma non riesce a spingere. La batteria è buona qua. Ora inisca, inisca. Aspetta, c'è. È sempre così, a volte si sente forte e a volte si abbassa. Quindi è migliorato, eh? Prova. Ora, 1, 2, 3, prova. Sì, non mi piace. Non esce come dovrebbe uscire, perché io l'Expander me lo ricordo, ce l'aveva Don Diego, uscire una bomba. Forse vuole pulito, Tonino, non riesce a uscire proprio potente, dai, la potenza non si sente. Pulito sicuramente qualche cursore, qualche cosa, magari anche il tastino. Bisogna controllarlo già. Com'è adesso? Dobbiamo voltarla. Adesso va meglio. Ho messo le tappe, però aspetta, ecco. Regolo un pochettino, e questo bisogna poi sfruttare un po' di cosa, ragazzi. Antiossidante. Nel PTT mettilo, perché sicuramente c'ha polverina. Prima un po' di spray, di aria spray e poi quello lì. E vedrai che già migliora, perché sembra che voglia uscire forte, però non ce la fa, e rimane... non so come spiegartelo, chiuso, eh. Sì, maestro, sto usando il carne mio, non più l'Expander, ho tolto l'Expander. Sì, lo so, ma io sto parlando dell'Expander, lo so che c'è il carne adesso. Mica, ma sempre fermo, buttato nell'armadio, capito. Sì, ma se va bene con questo, uso questo, ma quello non so dove appoggiarlo, ce l'ho in mano, va, non ci sta. No, ho fatto i pannini troppo bassi qua, da uno all'altro, capito? Io penso ho bisogno dei baracchini, giustamente, questo è più alto. Il problema di quel microfono è quello, io l'ho avuto. E lo spazio perché rimane mastodontico. Aspetta un po' a vedere una cosa. Alla, alla, alla, alla, alla. Sì, prova di modulazione. Sì. Cosa ho fatto? Ho messo lecco. Eia, mi piace leccare. Perché sei lecchino? Oi. L'eco del garage a me non è che piace tanto, mi piace più quello del microfono, del coso, del Sadelta. Io me l'ho venduto il Sadelta, ho fatto male, perché non c'avevo più il garage, quindi ho detto me lo vendo, me l'ha venduta. E me l'ho venduto, capito? E vabbè, adesso già c'è il Turner pure, ha voglia di microfono. Poi io lascio questo qua, pensavo di fargli attacchi di nuovo, invece vanno bene questi qua. L'avevo già fatto una volta, ma poi mi ero dimenticato che l'avevo fatti. Quindi col microfono poi si sente che è amplificato. Sì, ma al massimo sì. Così al massimo, aspetta, ancora no. Ora innesco, vedi. Così al massimo, ma innesca. Così da tolto il cc. Ascolta, prova a mettertelo sul ginocchio un attimino col microfono al massimo, perché al massimo è l'ideale, bello forte. E pesca, senti. Allora, il microfono è al massimo, però il making in l'ho abbassato sulla innesca. E se lo metti sulla gamba? E sulla gamba adesso. E come mai che innesca, boh, che casino. È troppo sensibile col microfono che c'è esterno delle Galaxy. Invece io la vicino. Innesca. Anche a me col garage si fa così. Però se lo metto sull'apparecchio che è sopra il garage, sull'altro, sul Cobra, non innesca. Va benissimo, lo posso mettere anche al massimo e non innesca. Si mangia io, devo entrare nel momento sto qua. E nessun posto, perché in tutti i scompartimenti che ho le basi non ci sta sto microfono, è più alto, dovrei modificare qua e abbassarlo, allora sì, alzo una manovra, quanti mi devo togliere? Sì, va bene, frega, te ne vedi il dito e te ne prendi un altro. Prendi cosa? Il microfono. Che va bene questo qua, cosa vedi dire, ma che vendete? Poi questo mi devo dare 1.450 euro. Per che cosa? Per il microfono. 1.000? E ha capito di voi? No, ho detto 150 euro, non 1.000. Ah, ho capito, 1.150. E vabbè. E vedi tutto. No, diciamo che il Turner va bene, ma il coso, l'altro vuole controllato. Sicuramente c'è qualche cazzata. Sì, tanto qualche giorno mi ci metto, faccio i contatti bene, distrutto un po' di CDC, insomma, eccetera, eccetera. I contatti vogliono fatti bene, perché quei contatti non ci ha fatti quando mi ha dato quel microfono. Quindi non so se vanno bene per il mio, io l'ho preso, attaccato e poi, ovviamente, non è come si deve essere, capito? Le devo rifare. Mentre invece l'altro apparato ancora, quello 10 metri radio, quello eccetera, che ha gli stessi canali, A, B, C, D e F, anche quello c'è gli stessi canali di questo. Ah, io non mi decidevo mai il Turner a controllarlo, oggi mi sono capintato, in 5 minuti l'ho fatto, le lamelle volevano appena appena abbassate, dai, perché non toccavano bene. Le abbassate stesse con le mani, sono leggere leggere, bisogna stare anche attenti perché prima che si spezzino. E adesso funziona bene, adesso va bene. Allora, vediamo se metto locale. Sì, rimane. No, tocca bene, dai, va bene anche il mio, dai. Una sola garatina ci vuole però. E vabbè, già si fa, dai, piano piano, quando ne gara. Comunque, come radio è meglio del microfono normale già. Sì. Anda bene. Come i vecchi tipi, sto facendo. Uscivi più forte prima, la verità. Però se tu lo metti forte, fischia. Esce bene quando lo metti al massimo, però fischia. Così, 1-2-3 più forte la radio. Sì, 3 volte di più. Va bene. Devo scoprire perché fischia. Sì, io devo togliere il fischietto. Perché fischia potrebbe essere una questione di massa. Prova a fare un filo che passa dall'attacco del microfono al baracchino al microfono, al lungo del microfono. Vediamo un po' se riesce a risolverlo. Ci provo con calma, ma questo periodo viene un po' negativo perché sto facendo il laser. Devo rifinire venerdì, perché oggi ho saltato, avevo comunicato che non ci andavo oggi. Devo finire domani, ma siccome è stato un giorno finisco venerdì. E poi venerdì stesso c'ho un'altra vista per il piede, quindi automaticamente è un macelluzzo. Io dovrei essere lì dalla mattina a fare queste cose qua, perché il pomeriggio poi quando io all'1:30, 1:15 dentro a casa mangio, mi viene a fare la pinichella, la voce non faccio più nulla. Io me lo faccio stasera, me l'ho messo attaccato, me l'ho aperto prima fuori il microfono, poi sono venuto qua, l'ho attaccato all'apparecchio e piano piano gli abbassavo le lamelle, sì, quando poi sono riuscito a sentire proprio la voce bene. Sì, ma io sono sempre casinato già. Arrivo la sera, io mi sono fatto la pinichella piccolina, però dai, alle 4:30 mi sono alzato. Alle 5:30 sono andato a prendere mia figlia, accompagnarla, è una scuola di ballo, quindi. Dimmi che non è che lo posso, arriverò questo con gli extracco, non ci vedo ne vannuta, mi bocca attacca ai 9, arriva già l'orario di cucina. Beh, sei impegnato, dai, io bene o male a cucinarci pensa Eren adesso. Prima facevo tutto io, poi adesso si sta pensando lì, quindi la lascio fare. E io mi riposo un po' perché non ce la faccio, Tony. Lo so. Lo saggi. Spero che ti chiamano quanto prima già. Cosa Carlo non entra? Cosa Carlo? Non lo so, l'ho sentito stamattina e mi ha detto che entrava stasera, però magari ha avuto qualche cosa da fare, non lo so. Ma mi dispiace, va. Ecco. Adesso com'è la radio, Gianni? Come poco fa, non è forte, dai. È normale, diciamo, qualche cosa in più del microfono normale. Però col microfono pompa un po' di più, perché tu come lo alzi, anche quando fischia, arrivi fortissimo. Quindi così automaticamente è più forte la radio. Beh certo. Aspetta. Innesca sempre. Hola. Sì, se non stai innescando te li mai e mica posso chiamare il collega, non va bene. Sì, ma col checco lo innesca, invece se sa che è così. Oh checchino, boh. Ah, me ne sai. Sì, e l'orario com'è? Forte Gianni? Già è forte, sì. Devi parlare più piano perché sennò ti accavalli le parole. Allora, devo parlare piano, così va bene. Cappa. E mi pare un ritardato a parlare così. Un robot. Sembra un ritardato parlando piano. Col checco così. Ma lui, tu c'hai l'abitudine di parlare molto in fretta, quindi per te l'eco non è che sia molto indicato. Lo so, sono già io un eco. Rogaridade. Te mai sono proprio siete, qui sono già da me. Adesso c'è l'eco. Adesso ce l'hai. Attenzione, Tonino Kawasaki, si ascolti il doppio ruolo, la voce calda della frequenza, cambio. Papa, Gianni, voce calda della frequenza. Voce rotti per sognare da Tonino Kawasaki. Cappagata, adesso non ci vedo un cacchio per tutto. Oh, fatti bene, che magici, va, qua sono tutto. Sei troppo forte, non si capisce. Cosa hai detto già? Si ho levato l'eco. Sì, adesso sì. Perché scusa, non vedi quando io ammasso il tazzino e ecco io. Ho capito, ma io sono al buio, tu. Capisci a me. Sono al buio, ho le luci notturne, quelle blu. Mettere fuori il vicino, vedi, ecco. Già lo so come si usa, ne ho avuto 5 di gara, sì, io. Anche tu l'avevi avuto tanto tempo fa, vero? Io ho avuto prima che è uscito, che l'avevo preso nuovo da Mare Notare, M2. Aveva il negozio lì in via Babili. Lo so, vicino a Koala, non so dove ce l'aveva. Andavo anche io lì. 750.000 lire, allora l'ho pagato. Costava, sì, è vero. Comunque ne ho visto uno su internet, 400 euro, che cazzo, quasi esagerato. E infatti si romagna, se lo bene. Molti vi stanno chiedendo quanto le dare, che si sparo sempre 2,50. Poi non mi ha più risposto, ha detto scusa, ma ti sei paventato, sì o no, sto valutando in base a altri apparati, fai come vuoi. Però pensaci bene, perché poi, forse che poi lo do via. A me non mi era il fastidio tre o qua. Anzi, ho ritratto lo sport dello centro, attacco l'altro, l'altra ancora. Beh, anche io faccio così, dai, adesso vabbè, questo c***o l'avevo, ma... faccio anche io così, rispolvero oggi prima di metterlo tutto spolverato, fatto e l'ho sistemato, dai, l'ho sistemato bene. Ecco. Adesso il primo gennaio abbiamo la tredicesima della pensione. Il primo gennaio? Ma adesso me lo devono mettere 150 euro questo mese. Cioè, pardon, ho sbagliato, ho detto il primo dicembre, la tredicesima. Allora, 150 euro, se non subito il diritto, mi sono informato, caro Gianni, infatti io non ce l'avevo, ho superato il diritto. E quanto devi avere il diritto, scusa? Con 12.000 euro all'anno non lo superi, no? No, allora io ho molto di più di 12.000, però ci ho fatto. Loro parlano del diritto dell'anno scorso, e io ho, beh sì, 9 mesi con la ditta, più 10-11 mesi con l'assegno dell'invalidità, ecco perché ho superato il diritto dell'anno scorso. E anche io l'ho superato un anno e mi sono pagato 3.000 euro quasi, 2.980, una cosa del genere. Mi sono dovuto pagare perché l'ho superato di brutto e ho dovuto ritornare indietro i soldi. Adesso invece no, quest'anno sono tutto tranquillo e l'anno prossimo lo prendo bello pieno, capito? Cioè se mi danno, mi tocca 150 euro, 200, quello che danno, io lo prendo tutte, perché è così. Purtroppo il rito l'ho superato. E vabbè, stavo lavorando fino a settembre. E poi mi continuavano a dare l'assegno quando sono andato in pensione, che la pensione ancora non me la davano. Praticamente mi davano sempre dell'assegno di validità sino a dicembre, anche la tredicesima mi hanno dato, capito? E poi a gennaio penso che le entrate, le malle, dice la gente presa, mi hanno informato e va via ragione Buluetti. E quindi niente, mi hanno tolto quella lì e mi hanno fatto la normale poi. Ma è strano perché l'avevi presa con l'altro tipo di assegno, non con questa pensione qua. Vabbè, comunque io sono già da 24 giugno di 2 anni fa che non lavoro, quindi dovrebbe toccarmi. Adesso vediamo di qua non c'entrano la domanda. Allora io ho letto bene quei fogli che ci ho capito ben poco, poi me ne sono riletti, non mi era passato l'invalidità Gianni, però non ho capito, ho scritto da 75 al 99%, quindi non ho capito quello cacchio mi hanno dato. Devo farò legge una persona che devo capisce, non me l'hanno tolto e l'ho fatta, è praticamente scritto da un foglio da 67-99% al 99%, poi scritto da 75 che ho io la percentuale fino a di fare una visita sia al 99, però cosa mi hanno segnato non ci ho capito più. Però ti hanno messo, tu quanto ci avevi? 75 e ti hanno messo al 90, da 75 al 90 vuol dire che te l'hanno aumentata, non diminuita, scusa. C'è scritto da 75 al 99,9% a fare il genere. E poi non dal 100%, capito? Se no qui ti tocca pagarti di più. Se non me ne hai bugato mai nulla, me ne ha dato le due cose con Franchi. Anzi, me ne hai bugato, ma... non sei uscito. Ho detto, chiedere a quella persona... Io gliel'ho accennato così, ho pensato che ho letto un foglio solo, erano due raccomandate, capito? Che forse me l'hanno abbassato, lui lo fa con tutti, con l'altro, niente, io so che io ci devo andare da lui, gli faccio vedere i fogli, era diverso, capito? Perché io non ci capisco nulla, tutte queste voci che strane che ci sono. Tu sono i soldi più bisogna fuggirmi. Magari. Sembra che mi hanno dato due raccomandate, non mancava una. E non ti hanno trovato tutti in due volte. Allora, a me passa, Campanello lo mio e si chiude nella buca, lo metto l'avviso, capito? E io sono trovato, due avvisi mi sono trovato, sono andato in posta e no, 5 giorni lavorativi, ho dovuto aspettare il quinto giorno per ritirarle. Sì, perché non le consegnano subito, capito? E quindi io Campanello non ne ho già. se l'hanno messo diversamente, chi è il padrone qui, eccetera, ma io ne posso punire. E cosa faccio? E me ne posso punire 200 metri di cavo, ma. Vabbè, una campana, vedi, di quella che si tira la corda e suona. Sono incontrato a mille da noi. Comunque, la morte è difficile che me la pagano, Gianni, Davvero? Sì. Perché? Il testimone ha dichiarato la prima volta in vice, quello conta pure, è inutile che la sua volta mi scrive sì, c'è stata collisione, ha scritto che il vice è passato col rosso, io giustamente la moto ha visto la macchina, ha fatto il colpo, ha perso il equilibrio e è caduto, la mazza gli deve fare buraetta. Ma non è che tu hai pensato, no, che praticamente hai frenato col freno di davanti e ti sei girato il manubrio? No, perché io non ho neanche frenato, perché ho sentito il colpo del retrovato, la macchina di colpo davanti, ho sbattuto forse con la ruota, e con la ruota non fa essere un segno, e se c'è un segno così l'hanno tolto lì con lo straccio umido, capito? Ha avuto tutto il tempo, ha spostato anche la macchina, è venuta la moglie, il cognato, e non è avuto il tempo di farlo. Quindi niente, io ero mezzo morimondo ad appesare la macchina così, me l'ha fatto passare a me. Niente, io ho sentito una ruota forte e poi cadere per terra, mica mi sono sbattuto a muro visibile. Ma chi t'ha detto l'avvocato te? Me l'ha detto proprio il liquidatore. Quindi. Però, giustamente, quando poi il liquidatore l'ha detto, è l'avvocato non ci viene neanche andare. Comunque, ho detto il liquidatore, comunque quello che mi ha detto lì non è vero niente. Cioè, ho detto, anche se non c'è stata la collisione, quello che faccio con rosso viene pagato il 100%. Perché se lui non passava con rosso, io non mi sbattevo e non mi facevo niente. No, quando non c'è collisione è il 50%, ma questo lo dice lì. Non si preoccupa, l'ho detto. Come dice lì, quindi poi al limite poi si va in tribunale, nessun uomo più felice del mondo, perché allora chiede molto di più, perché automaticamente c'è anche la sua registratore, il messaggio che mi ha mandato, sono passato per rosso, la colpa è mia. E lui cosa ha detto? Ha detto che lui non vuole sapere quelle cose, però lo vedrà il giudice, è vero, quindi se si va in tribunale, se si va in tribunale se ne parlerà già nel febbraio minimo, è già. Vabbè, la malattia tua, niente, non si paga nulla praticamente. No, la malattia mia, la moto non la pagano, se non c'è questa collisione non si vede nessun coso. A me mi toccherà, cosa ne so, con 70-80.000 euro, una cosa del genere. Boh, poi, se non ti pagano la moto, risulta che non è colpa praticamente, se ti sei fatto male, magari che sei caduto da solo, risulta che te l'ho fatto tu e non ti pagano ma qua se è così. Però se tu dici che non è così, vacci avanti. Allora, io ho letto tutto, prima ho letto anche l'avvocato, la stessa cosa che ho letto io. Se io sono in moto, allora, questo passa con rosso, io mi spavento, freno, cado, automaticamente io sono caduto perché mi sono crollato la strada ed è passato con rosso. E quindi vengo pagato risarcito al 100%. Non è sull'articolo incidente stradale, articolo 2054. E poi te lo dici con calma. E allora ti devono pagare anche la moto, scusa, è un controsenso, ti dovrebbero pagare anche la moto. E se è lui che ha causato l'incidente, è lui che si deve prendere tutte le colpe, passando con rosso lui, è lui che l'ha causato l'incidente, non c'è.